Comunque oggi è la riunione del 3 gennaio 2011. Ecco, c'è Rocco, Enrico, Midori, Marta, Giacomo e Carolina. Okay. La gatta non partecipa oggi perché è stanca. Stavamo facendo un discorso generale, cosa vuol dire oggi, cos'è Aleph oggi? Perché Aleph sta cambiando da un po' di tempo, è iniziata come Aleph PNL, oggi non si può più dire Aleph PNL, nemmeno più PNL umanistica, è qualcosa che è diventato più grande. Grande nello stesso tempo più ristretta, come, più centrale come visione. Abbiamo fatto un cammino come una chiocciola, però dall'esterno verso l'interno, cioè un cammino a spirale. Ecco, una delle caratteristiche di Aleph è il passaggio da una cultura specialistica a una cultura dell'integrazione. Cosa intendiamo per specialismo? Specialismo intendiamo quello che è ben noto, il fatto che io sono competente, sono un podologo, sono un esperto, non sono un medico, non sono solo un fisiatra. Ma sono un fisiatra specializzato sul piede. Domani ci sarà il policiologo, cioè specializzato sul pollice destro del piede. Ora, è chiaro che lo specialismo comporta dei vantaggi, specialmente quando si ha a che fare con uno sviluppo intenso della tecnologia. Richiede proprio una professionalità specialista. Il punto è che però lo specialismo crea anche nello stesso tempo degli inconvenienti. Bisogna sapere in qualche modo superare, perché altrimenti il vantaggio dello specialismo potrebbe diventare contrario all'umanità. Se noi prendiamo la medicina cinese è completamente diversa dalla nostra. E i medici tradizionali cinesi si occupano di medicina preventiva e venivano pagati quando, non quando le persone si ammalavano, ma quando stavano bene. Ora, la medicina cinese si base su una visione olistica che è favorita dal loro linguaggio e dalla loro scrittura. La scrittura dei cinesi è una scrittura per ideogrammi. I ideogrammi sono figure e le figure esprimono delle relazioni. E quindi non, esempio, per dire uomo, puoi vedere un uomo che zappa. Ecco, zappare è un verbo, ecco. Ma vuol dire anche uomo che zappa, vuol dire anche zappa, vuol dire anche terra, cioè la figura ha, come dire, una capacità di rappresentare la realtà che non separa i pezzi, mentre il linguaggio concettuale, da Socrate in poi, tende per definizione a isolare i concetti gli uni dagli altri. Anche con Platone, l'idea, il fatto che esiste un iperuranio, dove c'è l'idea di cavallo, dove c'è l'idea di albero, che è l'idea perfetta di albero, a cui i fenomeni particolari devono confrontarsi, perché per capire un cavallo devi capire l'idea di cavallo, indica che in Occidente si è creato un'enfasi sul pensiero astratto. In fondo l'anima per Platone cos'era? L'anima era l'organo interno che ci consente di pensare con chiarezza perché procede per concetti e per numeri e per misure. Quindi non ha a che fare con l'anima in senso la parte buona di noi, ma la parte di noi che è in grado di produrre una conoscenza oggettiva. Perché se ci affidiamo ai sensi del corpo, vi chiedo qual è la temperatura in questa stanza, tu mi dirai, ma è abbastanza calda, tu è un po' fredda, mezzo freddo, mezzo caldo. Ogni persona ha un'idea diversa. È soltanto attraverso il superamento dei sensi, attraverso l'astrazione e una visione attraverso concetti chiari e numeri che si arriva a una conoscenza oggettiva. Per cui per Platone quella è la conoscenza. Questo fenomeno, questo accenno, che, così, in una conversazione come quella che stiamo facendo adesso su Aleph, da persone che sono disinteressate alla filosofia, potrebbe dire, vabbè, adesso aspettiamo che finisca in modo che così ci occupiamo di cose che hanno senso, perché io non capisco, non sono cose che si mangiano, non sono cose che si bevono, non sono cose con cui si arreda la casa. Ecco. Ora, per questa immagine della filosofia come qualcosa che serve a parlare tra le persone, a scambiarsi delle idee e basta, e quindi tutto sommato una perdita di tempo per persone che hanno nulla di concreto da fare, è una visione totalmente distorta della filosofia, perché la filosofia invece è un amore per il sapere, che però deve essere un sapere concreto, pratico, che serve a qualcosa. Mentre la filosofia, se noi osserviamo la filosofia, Heidegger, la filosofia di oggi, Heidegger lo dice chiaramente, la filosofia è morta. Non solo Dio è morto, la filosofia è morta, ha esaurito il suo compito, perché se tu vuoi sapere da dove veniamo, non lo vai a chiedere al filosofo, lo vai a chiedere a uno scienziato. Se tu vuoi sapere la struttura della mente, non vai certo da un filosofo, vai da uno scienziato. Quindi la scienza e la tecnologia hanno sostituito la filosofia. Questa è la visione di Heidegger, a cui peraltro Sini pare aderire per certi aspetti. Quindi tutt'al più oggi la filosofia cosa può servire? Può servire, è una storia, è una epigonale. Cioè noi ritorniamo sulle idee di Platone, sulle idee di Aristotele o sulle idee di Kant per rifletterci sopra, ma non è qualcosa che genera un sapere veramente utile oggi. Allora, vista così, la filosofia tutto sommato serve come qualcosa che ha a che fare con l'archeologia, cioè qualcosa che serve con l'archeologia del pensiero, non so, Nostalgici. per i nostalgici, per coloro che, beh, per qualche ragione da piccoli si sono appassionati a questo mondo, perché sono stati colpiti da un professore del liceo che gli ha fatto amare la filosofia, insomma, ma in realtà poi non si traduce in cose concrete. Ora, questo modo di pensare alla filosofia, così, a mio avviso, ma modestissimo, perché io non sono un filosofo, per carità. Sono una persona però che sin da piccolo almeno un difetto non ce l'ho avuto, quello di occuparmi di cose astratte per se stesse. Non ci ho mai avuto nessun interesse per l'astrazione in sé, ma solo per cose che in fondo producono delle conseguenze. Quindi ero appassionato di meccanica, di tecnologia, sono queste le cose che mi hanno sempre, di fisica. E quando mi occupo di idee, oggi lo faccio con lo stesso intento di quando utilizzavo il meccanico, cioè, ma funziona sta cosa o no? Se non funziona non me la stare nemmeno a dire, perché non, ecco. Allora oggi però noi sappiamo, grazie agli studi che sono ben noti, che le idee in realtà sono tra le cose più pratiche che esistano. Cioè uno dice, ma cosa significa questo? No, questo non la posso capire, cosa vuol dire con idee pratiche? Ma certo che è pratica. E no, ma l'idea non serve mica a mangiare, invece sì. Ma figurati, non serve mica costruirsi una casa. Come no? Certo che sì. Ma non ci posso credere. E invece sarebbe meglio che cominciassi a riflettere. Perché la nostra vita, così come dirigiamo la nostra vita, così come scegliamo i nostri affetti, così come scegliamo dove abitiamo, così come scegliamo gli immobili che compriamo, la macchina, se compriamo una macchina oppure no, da cosa pensiamo che dipende? Dipende dal sistema di idee interiorizzato che abbiamo fatto nostro. Allora, non sottoporre mai ad analisi questo sistema di idee interiorizzato che guida la nostra vita, che è la mappa che guida la nostra vita, e pensare di essere noi al comando, al volante della nostra vettura o al timone della nostra imbarcazione è quantomeno un'idea curiosa. Noi siamo guidati da sistemi di idee che abbiamo interiorizzato, che non sono mai state analizzate, non sono mai state viste. Allora, queste idee che non sono mai state viste, queste idee anche come convinzioni o vecchie decisioni, ma queste che non sono mai state viste e analizzate sono idee pigre, cioè che non si rinnovano e quindi ci portano a vivere in modo meccanico, ripetitivo, sempre nello stesso modo. Ma dice, ma non è vero, io adesso abito qua, ma ho abitato, prima abitavo, adesso abito in Italia, ma prima abitavo in Svizzera, poi ho abitato in Francia. Non, va bene, ma dipende da cosa ci hai fatto in Francia, in Svizzera, in Italia. Ecco, se noi andiamo a vedere da un certo età in poi gli esseri umani riproducono sempre lo stesso stile, si parla ormai di copione di vita, non conta il contenuto, chiaro che mi posso cambiare macchina prima o poi, posso cambiare vestito, a un certo punto posso cambiare compagno o compagna, ma lo stile della vita, ciò che guida le mie scelte, probabilmente è rimasto fermo chissà quando, e quando credo di cambiare in realtà cambio i mobili da una stanza all'altra, ma rimango sempre nello stesso piano dell'edificio, salvo poi lamentarmi che quel piano lì non ci voglio stare perché non c'è abbastanza verde, non c'è abbastanza vista e vorrei essere da un'altra parte. Allora ritorno al discorso delle idee, ma le idee che non revisioniamo diventano dei miti, cioè ci parlano attraverso di noi ripetendosi sempre nello stesso modo, così come esistevano i miti prima della filosofia. Apro una parentesi, cosa erano i miti? I miti erano risposte alla paura che l'uomo aveva nei confronti della natura, nei confronti del futuro, della malattia e della morte. I miti erano dei racconti fantasiosi che venivano, che venivano dalla mente che sogna, che immagina, che servivano a che cosa? A rassicurare l'uomo. C'è questa divinità, c'è quest'altra divinità, le cose stanno così e così, e l'uomo aveva una visione della vita che gli dava un fondo di sicurezza. I miti per funzionare hanno una caratteristica: non devono essere cambiati, devono essere ripetuti esattamente uguali. Il mito è una sorta di mantra amplificato che, ripetendolo sempre nello stesso modo, diventa un linguaggio performativo, cioè crea la realtà che intende descrivere. Sapete che nel linguaggio si parla di linguaggio performativo. La funzione performativa del linguaggio, per esempio, se un matrimonio, io pronuncio la parola sì, questa parola sì genera la struttura del matrimonio. Io sono sposato, cioè crea una differenza. Se invece dico quel cane è vecchio, sto semplicemente descrivendo una realtà. Ma di fronte al sacerdote che mi dice vuoi prendere in moglie questa donna, se io gli rispondo di sì, quel sì crea il mio vincolo matrimoniale con tutte le conseguenze della legge. Allora, lo stesso modo, i miti sono un linguaggio performativo perché, ripetendoli in continuazione, mi condizionano a tal punto al credere a quello che sto dicendo che poi la mia realtà diventa quella. Quindi costruisco una realtà, esattamente come quando dico sì, il sì costruisce il matrimonio. Allora, se andiamo alle origini del pensiero filosofico, perché bisogna sempre tornare alle origini per capirci qualcosa, dopo le cose si complicano. Da dove nasce la filosofia? La filosofia nasce dal desiderio dell'uomo di rassicurarsi, sempre la stessa cosa. La filosofia dice Aristotele, nasce da tauma. Tauma cosa vuol dire? Vuol dire meraviglia, di fronte allo stupore, ma vuol dire anche un'altra cosa, vuol dire terrore. Quindi la filosofia nasce dalla paura e nasce, come i miti, dal bisogno di trovare una rassicurazione. Una rassicurazione che mi consenta di vivere senza essere troppo spaventato. A differenza dei miti, però, la filosofia cerca di essere la rassicurazione non nella fantasia e nell'immaginazione, ma nella realtà, la ricerca delle cose così come stanno. Quindi la ricerca filosofica è la ricerca della verità. Verità in greco si dice aletheia, aletes. A, alfa privativo, letes, nascosto. Filosofia è la ricerca della verità nascosta, di ciò che è nascosto. Quindi la ricerca filosofica della verità non è la verità che appare, perché quella è sotto gli occhi di tutti e in realtà quella realtà che appare è un'illusione. La filosofia va a cercare aletes, aletheia, che vuol dire di svelare ciò che è nascosto. Quindi uno svelamento la filosofia. Epistemi. Da quale posizione? Epistemi vuol dire da una posizione in alto sufficiente da poter osservare la realtà e cogliere uno svelamento che sia incontrovertibile. Ecco, questo è lo scopo della filosofia, cioè fondare il sapere umano su basi certe. Ecco. Bene. Questa tensione dentro l'uomo da dove viene? Ve l'ho detto prima, dalla paura. oltre che dalla meraviglia. C'è la meraviglia da una parte, ma c'è la paura dall'altra. La meraviglia è: io vado verso la conoscenza perché non vedo l'ora di capire e conoscere. Dall'altra, io vado verso la conoscenza perché vado via dalla paura. Quale paura? Ma se io non conosco la realtà in cui abito, io sono sempre a rischio. Quindi il bisogno di prevedere, oggi la psicologia cognitiva ha dichiarato con molta chiarezza, il bisogno di prevedere è un bisogno fondamentale dell'essere umano, perché è collegato al bisogno di sicurezza. Se io non prevedo, io non sono mai al sicuro. Ecco. Ma questa previsione la posso fondare sulle mie fantasie, e quindi sono una visione primitiva, infantile, o delle prime, sì, punto. Oppure la posso fondare su prove certe e incontrovertibili. Se andiamo a vedere, la filosofia originaria era una filosofia che era era la filosofia della natura, era quello che corrispondeva anche a quello che oggi è la scienza, cioè di capire come è fatto il mondo. C'è una differenza però, che nella filosofia greca lo scopo era capire il mondo non per poterlo dominare e controllare, ma per poter capire in quale posizione noi siamo nel mondo, qual è il nostro compito nel mondo, qual è il nostro ruolo. Perché dicevano: è il saggio colui che sa stare dentro i limiti che gli sono dati dalla natura. Chi va al di là, che vuole andare al di là dei limiti, si macchia di ibris, di tracotanza, e va incontro a Nemesis, cioè alla vendetta degli dèi. Quindi per l'uomo greco la conoscenza era un modo per capire il posto che devo ritrovare nel mondo. In termini di Hellinger, di costellazioni familiari, vuol dire che io posso stare bene se sto negli ordini amore. E gli ordini amore non sono solo quelli familiari, come oggi, siccome oggi gli esseri umani sono specializzati, pensano solo alla famiglia perché gli è pigliata sta dritta qua. Anticamente essere al proprio posto voleva dire essere al proprio posto nell'universo, nella terra, nel mondo animale, nel mondo vegetale. E cosa ci stiamo a fare qui? Quindi gli ordini amore, perché si vive bene se si è nell'amore. Per vivere nell'amore però bisogna vivere con consapevolezza. Per vivere la consapevolezza ci vuole conoscenza, sapere almeno dove mi trovo. Io ero piuttosto piccolo quando avevo dei compagni di scuola, piccoli anche loro, ce ne avevo uno che aveva un anno più di me. Suo padre era tassista ed era comunista molto intensamente impegnato, e questo mio amichetto mi parlava sempre della Russia, dell'Unione Sovietica, per lui era il paradiso. Io, mio padre invece era liberale, quindi pensavo che il paradiso fosse negli Stati Uniti, insomma, eravamo piuttosto in difficoltà. Eravamo nutriti di differenti illusioni. Vabbè, questo mio amichetto, 3, 4, 5 anni, 6, 6 anni così, 4 anni, a 3, 4, 3 anni mi insegnò a giocare a scacchi. Vabbè, a 4 anni, e lui vinceva sempre. E da lui ha vinto le prime partite e ha vinto anche le ultime. Per tutto il tempo che ci siamo frequentati, per 10 anni, 12 anni, ha sempre vinto lui, tranne una volta in cui abbiamo pareggiato. Vinto lui perché aveva un anno di più e perché si leggeva i libri di scacchi. E come mai si occupava di scacchi? Guardate caso, perché i russi considerano gli scacchi un sentiero di apprendimento di importante, educativo e fondamentale. Infatti, lo sviluppo del pensiero strategico, gli scacchi sono fondamentali per lo sviluppo del pensiero. Lo stesso amico, si chiamava Giampaolo, che non ho mai più visto, ma che magari capiterà un giorno, si occupava di astronomia, che in quel periodo lì la Russia si occupava della ricerca spaziale e a un certo punto, dopo poco, mandò anche il primo Sputnik nello spazio. E naturalmente tifava per l'Unione Sovietica. E aveva un telescopio attraverso il quale potevamo vedere le stelle, i pianeti e così via. E anch'io quindi mi dedicai a costruire un telescopio perché non avevo i soldi per comprarlo. Vabbè, vi parlo di questo periodo della mia vita perché quando andai a scuola la prima volta a 6 anni e tornai a casa dopo un po' e chiesi a mia mamma: scusa, ma a scuola ma non ci insegnano le cose fondamentali? E mia mamma disse: perché? Scusa, ti stanno insegnando l'aritmetica, ci stanno insegnando i numeri, stanno insegnando a parlare. Sì, certo, ma questo lo capisco. Per me la domanda fondamentale non è come posso parlare con te o con un mio amico, per me la domanda fondamentale è dove siamo. Ma come siamo? Siamo? Mia mamma mi risponde, siamo a Genova. Dice, no, vabbè, questo l'ho capito, ma gli chiesi, dove siamo nell'universo? Perché io ero abituato a guardare dentro il telescopio e quando ti abitui delle sere, fredde o calde d'estate che sia, a guardare la luna, a guardare questi i crateri come Copernico, il mare della tranquillità, queste robe qui, dopo un po' ti poni delle domande, anche se hai 5-6 anni. Oggi consideriamo spesso i bambini come fossero dei deficienti, ma io mi chiedo, ma noi adulti abbiamo un'idea di che cosa sono i bambini? Ce lo ricordiamo, perché guardate che non sono così stupidi. Ecco. Bene, a 4-5-6 anni ci si pongono delle domande che sono, ma lo fanno tutti, credo che lo facciano tutti, tranne quelli che sono, vabbè, sono ubriacati da distrazioni strane. Per cui mi chiedevo che cosa, io voglio sapere dove ci troviamo. Ma c'è una galassia, ma questa galassia dove sta? In quale di posto? Perché dico, se non capisco manco questo, dico, ma che senso ha il mio essere qui? Cosa mi serve imparare la lingua? Dico, prima di tutto deve venire l'astronomia. Allora non mi rendevo conto che questa domanda non era così stupida, nel senso, anche se poi era del tutto inevasa dalla scuola. Perché è una domanda sensata, cioè io devo sapere dove mi trovo per sapere cosa devo fare, non mi posso affidare solo alla cultura in cui sono, perché la cultura potrebbe aver preso un direzione completamente sbagliato. Di fatto la nostra cultura oggi è completamente fuori strada, non sappiamo più chi siamo come esseri umani. No, stiamo distruggendo il pianeta, questo ha a che fare con le idee che nutriamo al nostro interno, perché non si distrugge il pianeta se non si è ricoperti, il cervello non è ricoperto di idee assurde. Cioè, distruggere la navicella spaziale, Terra, sulla quale risiediamo, non avendo una disposizione altra, capite bene che ci deve essere qualcosa di ben strano nella testa umana, che un bambino di 4-5 anni può capire già lì. Ecco, non c'è bisogno di filosofi esperti per capire questa roba. Ecco, questo volevo dirvi. Appunto, la filosofia greca si poneva la domanda, come stanno le cose per sapere qual è il posto che dobbiamo ricoprire nel mondo? Perché il saggio è colui che sa accettare questo e sa accettare i suoi limiti e quindi è capace di accogliere il destino così com'è. Questa è la felicità per i greci. Ecco, in un certo senso questo concetto non può essere superato oggi. È un concetto di fondo che è chiaro che l'umanità può anche cambiare un po' l'ambiente intorno a sé, ma se guardiamo l'universo, tutto l'insieme dell'universo, possiamo cambiare pochissimo. Piccoli dettagli. Infatti, oggi, come esseri umani, non siamo affatto più saggi di una volta. Forse lo siamo molto meno. All'epoca dei Greci, le città, quando avevano più di 20.000 abitanti, si fermava la crescita della città e si creava una nuova colonia, lontano da quella originaria. Perché più di 20.000 abitanti non può essere il governo di una città. È possibile. Perché non ci si riesce a conoscere. E allora torno al discorso dello specialismo. Allora, qui ho raffigurato davanti a me l'Ubuntu, queste rami come fosse di un albero che si allontanano dal centro. Ora, se in un albero un ramo diventasse lungo 3-4 metri, è chiaro che riceve ancora la linfa dal centro. Ma se diventa di 8 metri ancora, ma se diventa di 45 metri, di 80, di 280 metri, è chiaro che a un certo punto l'ultima foglia non riceve più niente, vive di vita autonoma. Allora, in un certo senso, molto specialismo oggi è questo qui. Se noi osserviamo la medicina oggi, se la vedessimo da vicino, per certi aspetti la medicina tecnologica ha fatto dei balzi avanti giganteschi. Dal punto di vista umano la medicina oggi è addirittura arretrata. Perché noi sappiamo benissimo, come diceva Balint, che il primo farmaco è il medico stesso. Questo è il primo farmaco. Perché noi non guariamo perché prendiamo della chimica, guariamo perché inneschiamo il processo di guarigione. Poi la chimica può aiutare, ma dobbiamo innescare il processo di guarigione. E chi più di un altro essere umano è in grado di fare questo? Ma per poi possa fare questo, questo essere umano ci deve conoscere, giusto? Allora oggi se io vado da un medico di famiglia, mi può dedicare al massimo 4, 5, 6 minuti del suo tempo. In realtà questo medico è lì per stilare una ricetta e io vado a comprare un farmaco. Ricetta con un farmaco che magari è indicato da uno specialista. che mi osserva il fegato, ma per esempio si disinteressa dello stomaco, o dello stomaco si interessa del fegato. Succede anche questo. Quindi è uno specialista il quale non sa nulla comunque del mio stile di vita, non sa nulla della famiglia in cui vivo, non sa nulla di che cosa mi è successo e che osserva il mio corpo come fosse un'automobile, sia pure sofisticata. Ora, sei qui tu Rocco oggi, quindi questo discorso ci riguarda particolarmente. Ora, noi sappiamo benissimo che la nostra salute o malattia dipende fondamentalmente non tanto dal patrimonio genetico, ma dalle emozioni che noi viviamo, cioè i movimenti dall'interno verso l'esterno. E oggi sappiamo anche scientificamente che ci sono le emozioni superiori, le emozioni elevate che producono un senso di unità. E le emozioni inferiori non sono né buone né cattive, sono semplicemente ci indicano che ho perso il senso di unità. Le emozioni superiori sono la gioia, l'amore, la compassione. E poi sono tutte quelle che si fondamentalmente queste, ma tutti gli atteggiamenti che si ricollegano a quelle che chiamiamo qualità dell'essere sono le emozioni superiori. E sono quelle emozioni che si verificano naturalmente in noi quando il nostro cuore è aperto. Oggi il centro del cuore, il cervello del cuore è in funzione e è salito sul podio del direttore d'orchestra e quindi dirige le strutture del cervello dentro la testa in modo da percepire la realtà secondo una visione unitaria anziché separativa. Oggi questo lo sappiamo scientificamente, ma la nostra medicina non se ne occupa praticamente quasi mai, se non casi. Particolarmente di per sé la medicina ufficiale standard è una medicina del corpo separato dalle emozioni, mentre le emozioni sono parte integrante del corpo. Allora, oggi il nostro lavoro in Aleph è un lavoro che è completamente controcorrente, quindi è abbastanza comprensibile che un lavoro controcorrente sarà un lavoro che ci emargina. Ecco, se vuoi proporre un lavoro come questo all'interno di una facoltà universitaria, non riuscirei a collocarlo da nessuna parte. Non è filosofia, non è psicologia, non è psicologia evolutiva, non rientra in nessuna cattedra. Io ho abitato all'università per tanti anni e quando mi hanno chiesto quale cattedra poi volevo di psicologia, sì, ho portato i 20 libri che avevo scritto e il direttore d'istituto mi osservò un attimo così, ma disse, vabbè, ok, ma tu qual è la disciplina che vuoi? E non sono mai riuscito a parlargli di che cosa sto facendo, perché non gli interessava, non aveva il minimo interesse, voleva collocarmi in una cattedra. Perché? Perché per l'università quello che serve è che ci sia un docente che ricopre una cattedra, perché così poi ci sono gli studenti che fanno quel corso, che poi sta dentro quel corso di studi, alla fine si laureano tante persone. E se ci sono queste caratteristiche, queste strutture in funzione, l'università riceve determinati finanziamenti. Quindi l'università è diventata un'azienda come un'altra che non che fa profitto, ma in qualche modo ha bisogno che cosa? Di ottenere gli studenti, le università se li rubano l'uno gli altri attraverso la pubblicità, perché chi ottiene più studenti ha più cattedre, ha più mezzi per la ricerca e così via. Allora, se l'università, che dovrebbe essere il luogo libero, dove si può pensare, perché un professore universitario dovrebbe essere questo, santo cielo, e invece no, è dentro un meccanismo burocratico per cui quello che conta sono i crediti formativi, il numero di studenti, il numero di corsi, per cui non a caso i corsi universitari si sono moltiplicati in un modo incredibile, l'offerta, ecco, vabbè, e molte volte è un'offerta fasulla, nel senso che sono le stesse discipline a cui si danno nomi diversi, poi vabbè. Questo almeno qualche anno fa, quando c'ero io. Tornando a Aleph, il nostro è un cammino al contrario, nel senso Aleph non è un ramo di un albero che vuol diventare più lungo, ma proprio il contrario. È semplicemente un percorrere questi rami, arrivare dove abbastanza avanti sui rami, per poi tornare indietro e tornare verso il centro, verso quel luogo dove ancora i rami possono tenersi vicini e comunicare tra di loro e comunicare con il centro. Quindi è un cammino dalla periferia verso il centro. Quindi lo stesso cammino di una spirale dall'esterno verso il terno di un albero, dalle foglie verso il nucleo, le radici. Ecco, quindi quando vi dicevo prima il discorso delle idee, Aleph ha delle idee di fondo. Il nucleo di Aleph non sono le tecnologie potrebbero cambiare tutte. Il nucleo di Aleph sono un gruppo di idee portanti che derivano, non da Aleph, derivano da molto tempo fa, dal lavoro che ho fatto con Porena, la pratica musicale di base, dove Boris Porena e Paola mi hanno insegnato come si fa a creare un ponte tra lo specialismo e la cultura di base, che non è solo quella dei bambini da scuola primaria, ma anche degli adulti non specializzati. Ed è stato Porena che mi ha insegnato che ogni persona ha una competenza musicale. Non dice, no, ma non sa suonare il pianoforte, non sa suonare il violino, non sa leggere la musica. No, no, c'ha una competenza musicale, che è la sua, specifica di quella persona lì. E che noi come specialisti della musica, senza renderci conto, cerchiamo di colonizzare. Così come in passato, e forse anche adesso, ormai l'abbiamo fatta a tal punto che non ci rendiamo più, abbiamo cercato di colonizzare i paesi del mondo per esportare le meraviglie della nostra cultura e per capire di cosa sto parlando vi rinvio al libro di Howard Zinn, Storia del popolo americano, che pochissime persone mi sembra abbiano letto o comunque facciano finta, almeno diano segno di averlo letto perché se no il Columbus Day non potrebbe più esserci. Capire la bellezza della nostra cultura, che si sentiva superiore alle culture degli indigeni americani. Quando in realtà, non tutte, ma alcune culture indigene americane erano anni luce avanti alla nostra. Erano indietro, su alcuni aspetti, le armi e la tecnologia, ma avevano, per quanto riguarda ciò che è importante per la felicità umana, delle comunità dove le persone erano in ottima salute, sia fisica che psichica, dove non esisteva la giustizia punitiva, ma solo quella riparativa, dove non c'era la prevaricazione dell'uomo sulla donna, dove l'allevamento dei bambini avveniva secondo regole che tengono conto della natura umana e non delle ideologie che si sono nel tempo stratificate nella mentalità dell'uomo occidentale acculturato, che fa partorire le donne in contesti che saranno sicuri dal punto di vista della setticità, ma che possono essere disastrosi dal punto di vista della qualità delle relazioni. E siccome in Occidente pensiamo che il corpo è una cosa, la salute del corpo è una cosa, le emozioni e le relazioni sono un'altra, siamo in grado di far partorire le donne magari di fronte in una sala con una luce potentissima, circondato da persone che non conosce, che si occupano della donna dal punto di vista tecnico, come fosse una macchina. E oggi consideriamo come illuminati persone come certi neonatologi, ben noti ormai, che hanno scoperto che il modo in cui un bambino viene al mondo, il contesto in cui viene al mondo, è il momento più importante di tutta la sua vita, molto più importante del fatto che nel suo piano di studio universitario ci sia o no l'esame di psicologia del lavoro o psicologia evolutiva. Cioè là dove ci sono le fondamenta di tutta l'umanità, l'abbiamo raggiunto dei livelli di ignoranza che sono indice di una incapacità di stare al nostro posto nella natura, che soltanto una società che è andata verso la follia, può aver sviluppato. In qualunque altro posto del mondo, nelle società cosiddette primitive, le donne possono mettere al mondo i figli in modo assai più naturale, sicuro per la donna, per i figli. E molto più equilibrato. Ok? E dico questo perché la nostra è una civiltà caratterizzata da narcisismo e da tracotanza, dal pensare di essere noi per la prima volta ad aver capito qualcosa del mondo. E ora, se la misura di ciò che uno ha capito è data dall'entità della distruzione che può generare, e sicuramente noi siamo la civiltà più colta dell'universo, perché abbiamo creato sufficienti armi a distruggere tutta la vita sulla Terra almeno 100 volte. Per altri aspetti, questo non è mica vero. Ecco, quindi così come il narcisismo culturale sta imperando ovunque, così sta entrando nella nostra psiche individuale. Ormai l'economia è l'inconscio, come ci dice Hillman, e conseguentemente i virus del pensiero, le idee che attraverso questa struttura sociale penetrano al nostro interno, che ci rendono individualisti, continuamente separati gli uni dagli altri, diffidenti a livello profondo, perché a livello superficiale ci fidiamo a sufficienza, non siamo sempre con la pistola in mano, ma a livello profondo c'è una diffidenza molto radicale, la maggioranza delle persone. Questo sistema di idee è un sistema di idee che o siamo in grado di vedere in profondità, rianalizzare, cambiare anche collettivamente, partendo da piccoli gruppi e poi via via estendersi, oppure siamo destinati praticamente all'estinzione, perché non sono compatibili con la vita su questo pianeta. Il futuro dell'umanità, visto da un punto di vista Aleph, è piuttosto semplice: dobbiamo sviluppare maggiore consapevolezza, maggiore intelligenza, ed è tutta a nostra portata. Uno dei passaggi che io vedrei molto chiaramente è: individualmente è molto difficile sviluppare sufficiente intelligenza per comprendere una società così complessa e tornare indietro lungo i rami di questa società per ritornare al nocciolo, al nucleo, perché è difficilissimo. Se singolarmente non ce la possiamo fare, almeno credo, ce la possiamo fare collettivamente, cioè sviluppando un'intelligenza più grande, che è quella intelligenza dialogica di cui parla Panikkar, di cui parlano altri filosofi, anche filosofi del dialogo. E per sviluppare questa intelligenza collettiva occorrono dei contesti in cui viene valorizzata. Allora, quando io mi sono trovato a scegliere la tesi per l'università, ero abituato a studiare con un mio compagno, uno o due miei compagni. Eravamo abituatissimi a essere un team efficiente. Eravamo macchine da esami, funzionavano benissimo. Sia pure in una disciplina che non mi erano congeniali, però facendolo in team andavamo all'esame al massimo dei livelli. Nel momento della tesi mi trovai completamente solo. Allora andai dal professore e dissi: senta, ma non si potrebbe fare una tesi in cui io faccio una parte di una tesi, tesi 1, e poi mio amico fa la tesi 2, in modo che... Ah no, no, no, queste cose a quattro mani non hanno nessun valore, bisogna fare una tesi individuale. E lì sentii intanto una ferita personale, perché mi dissi: ma scusa, ma adesso io mi devo smettermi a studiare da solo anziché continuare a fare come facevamo, che mi sembrava un'ottima cosa. E mi resi conto che questa affermazione del professore corrispondeva poi a quello che sarebbe successo dopo, per tutta la carriera accademica, cioè ognuno è solo e deve fare i conti solo con se stesso, deve fare i conti per produrre sufficiente materiale per via via fare carriera, ma si produce materiale soprattutto facendo le cose per conto proprio. Quindi non viene valorizzata l'intelligenza gruppale, l'intelligenza collettiva, ma l'intelligenza individuale per poter competere con altri. Allora, un'intelligenza che nasce con la visione competitiva è già un'intelligenza fallace dal nostro punto di vista. Perché noi non abbiamo bisogno di intelligenza competitiva, l'abbiamo sviluppata anche troppo. L'intelligenza competitiva porta alle armi, un meccanismo chiarissimo. Abbiamo bisogno di sviluppare un'intelligenza, quella sì, ma gruppale. Ed è la sfida che ci riproponiamo di sviluppare soprattutto quest'anno. Per questo tipo di intelligenza occorre che noi apriamo il centro del cuore, altrimenti il dialogo non potrà avvenire, se non a livello superficiale. Ecco perché in un'intelligenza gruppale o collettiva, che è indubbiamente superiore a quella individuale, così come un organismo pluricellulare, un'intelligenza superiore a quella di un organismo unicellulare, occorre un lavoro che effettivamente non è solo lavoro cognitivo, ma è lavoro sulle proprie emozioni, sui propri vissuti, sulle relazioni soprattutto. Quindi le nostre conoscenze non sono neutre, sono sempre idee che portano una parte o portano all'altra e ci portano verso una buona direzione se nascono in un contesto relazionale fondato sull'amore, sul rispetto, sulle qualità dell'essere, in un contesto dove al posto di queste qualità ci sono gli inquinanti della competizione, dell'egoismo, dell'arrivismo. Anche le conoscenze risentono. Ok? Va bene, mi fermo qua per oggi. Questa conversazione, questo monologo, che per un futuro riuscire a superare questa fase del monologo e tradurre veramente in futuro un dialogo in cui una persona ci passiamo con la parola.